Potrei andare avanti così tutta la sera, comunque, e farmi incoraggiare da voi, sarebbe molto bello comunque. Ci sono momenti della vita in cui ci sono dei periodi in cui pregare non è la cosa più semplice che ti riesca, è vero? A me è capitato in alcune occasioni, e devo dire che in quei momenti ho dovuto in qualche modo prendere qualcosa che mi incoraggiasse veramente per poter pregare, perché magari vivi periodi aridi, periodi in cui è difficile, in cui ti senti scoraggiato, e quindi questo diventa normalissimo per tutti noi. E proprio perché Gesù sapeva che noi passiamo periodi come questi, ci ha fatto un regalo bellissimo, che è una preghiera straordinaria che lui ha dato, l'ha insegnata proprio. Ha detto: quando dovete pregare, io ci aggiungo, quando non sapete più che cosa pregare, pregate così: Padre nostro. È vero? È una preghiera che raccogliamo anche da una cultura cattolica, insomma, recitata sempre e spesso anche a scuola quando si iniziava le lezioni. Però in realtà è una preghiera profonda, una preghiera che ha un qualcosa di straordinario all'interno, che può cambiare anche la tua attitudine e il tuo porti nei confronti di Dio e anche di quello che stai vivendo. È veramente di un incoraggiamento pazzesco. E devo dire che a volte diventa quasi un mantra, no? Non recitato, ma proprio sai che stai lì, che dici: Padre nostro che sei nei cieli, e continui a scavare. E se tu vai giù dentro in questa preghiera, scopri che c'è qualcosa di più che un modello. È un'intimità, è una relazione profonda che tu costruisci con il tuo Padre. Perché per la prima volta Gesù ci dice che Dio è nostro Padre. Ed è straordinario l'idea che noi possiamo avere una relazione personale con Lui, e poi c'è tutto un mondo dietro questa preghiera. Però non voglio parlarvi dall'inizio alla fine, se ci sarà modo, farò anche se avrò la possibilità, mi piacerebbe approfondire di più tutto questo, però mi sono soffermato su un verso in particolare, quindi iniziamo, non dico dalla fine, ma quasi dalla fine, ed è un verso che mi ha tartassato tantissimo. Devo dire che mi ha così bloccato tante volte, ho dovuto fermarmi a capire: ma che vuol dire tutto questo? Che vuol dire per me? Perché lo abbiamo detto tantissime volte, forse decine di migliaia di volte nella nostra vita, recitato o meno, pregato o meno, letto o meno, ma poi c'è questa frase che ti inchioda, che dice Matteo 6,12: rimettici i nostri debiti, possiamo dirlo ad alta voce, come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Vedete la cadenza che ci avete, uguale a quella della recita a scuola. Rimettici i nostri debiti. E questa frase, insomma, è sempre stata, come dire, non semplice, di facile lettura, perché seppure tu capisci che, insomma, che il senso del debito, ok, però rimettici i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, ha tutto un senso e tutto un mondo che avremo tempo di guardare insieme stasera. Siete con me? Volete entrare in questo argomento con me? Ok, tuffiamoci. Che bello quando tu vai al bar e hai preso, non so, una consumazione con un tuo amico, hai preso tempo con lui, hai avuto un buonissimo caffè o cappuccino che sia, e a un certo punto poi arriva il tempo di andare, perché insomma il tuo appuntamento è finito, e ti avvii verso la cassa, e quindi fai questo movimento automatico di prendere il tuo portafogli, di andare verso la cassa, di aprire il vano degli spiccioli e di andare alla cassa e dire: quant'è? Ho preso un caffè e un cappuccino. E a un certo punto la cassiera ti dice: è pagato. Qualcuno l'ha pagato. Vi è capitato mai? A chi non è capitato mai? Fatevi degli amici, per favore. No, è un'esperienza bellissima, perché Cioè non è per i 2 euro, i 5 euro che siano, però tu hai in automatico un percorso che finisce alla cassa perché ti dice no, no, non devi pagare proprio niente perché qualcuno ha pagato per te. Che bello, no? E poi scopri che insomma qualcuno l'ha fatto, ha pagato la tua consumazione ed è sempre bellissimo. Questo è nel caso in cui uno dei tuoi debiti banali viene pagato. Però in realtà che cos'è un debito? Noi viviamo in una cultura del debito, purtroppo. La nostra società è costruita sull'idea del debito. Siamo stati tartassati tantissimo da queste notizie riguardante la crisi greca, no? Avete seguito un po' i TG, anche se non ne capite come me di finanza o di debito pubblico, probabilmente tutte queste parole, debito, Grecia, uscita dall'euro, insomma tutte queste cose vi hanno in qualche modo influenzate, avete almeno sentito parlare di questo. Ed è vero, perché anche ogni volta che noi paghiamo qualcosa, ogni volta che noi spendiamo dei soldi, prendiamo delle monete e le diamo al nostro negoziante per pagare qualcosa, in realtà noi stiamo facendo una promessa di pagamento. In realtà la moneta è una promessa di pagamento, perché chi la riceve, appunto, non so, il negoziante, il fruttivendolo che sia, in realtà riceve da te dei soldi e quella carta, quella banconota o spiccioli che siano, sono da parte dello Stato la promessa che se tutto va male, questo negoziante può andare allo Stato italiano e reclamare il valore in oro di quella moneta che è stata emessa in base alle disponibilità dello Stato. Non so se è chiaro. Sapete cosa fa lo Stato? Emette un sacco di debiti. Emette titoli di Stato, la gente li compra, gli altri Stati li comprano. Perché emette titoli di Stato? Perché deve mandare avanti il paese. Insomma, è come una piccola famiglia che deve, non so, mandare i figli a scuola o deve comprare una nuova macchina. Non si può vivere senza una macchina, insomma. Quindi alla fine si fa i debiti per comprare, mandare avanti dei servizi. Che cosa succede? Che poi, a un certo punto, questo debito è enorme e non si riesce più a pagare. È incredibile, no? Che storia distruttiva che è questa, perché non ci rendiamo conto, ma il nostro mondo è fatto di questo. E seppure magari ci può risultare un po' lontano questo discorso perché riguarda la Grecia, qui riguarda l'Europa e qui su e giù, però un bel giorno in Grecia si sono svegliati e non potevano più ritirare i loro soldi perché erano congelati dallo Stato che doveva pagare i debiti con le altre nazioni. Quello Stato stava andando in bancarotta. Il loro debito era così grande, è così grande. E ragazzi, anche quello italiano è molto grande. Non è una buona notizia, però è così. Non potevano più pagare i debiti. Allora, cosa hanno detto? Signore Europa, per favore, cancella il debito. Non era Jovanotti che lo cantava. Però sono andati là a dire, per favore, cancellate il debito, perché noi non lo possiamo pagare. È tutta la storia che probabilmente conoscete bene e di cui avete sentito parlare. Ma la cosa bella, che la cosa più ancora più intima di quello che sta succedendo intorno a noi e forse impercettibile, è che noi stessi facciamo debito a consumo, no? Ogni volta che noi paghiamo le rate della nostra auto o paghiamo le rate del nostro telefonino, in questo momento stiamo accumulando debiti perché stiamo utilizzando corrente elettrica, abbiamo le luci, abbiamo il proiettore. In questo momento, pastore, non ti voglio mettere ansia, però dovrei pagare la bolletta. Stiamo accumulando un debito anche in questo momento. Il nostro sistema è costruito su questo. Ora, io non voglio dire, insomma, è una notizia che sapete tutti. Però vi dico, ho una cosa bella da dirvi. Stasera uscirete che non avrete più debiti. Ve lo prometto. È questo che Gesù stava dicendo, è quello che noi riusciamo a capire da questo. Lo so che fa molto brusio questa cosa, però ragazzi, non è che lo devo fare io, non vi pago i debiti io. state tranquilli, ci sarà qualcuno, e immagino già che voi sappiate di che sto parlando, che pagherà i vostri debiti. Il debito è una cosa brutta. Il debito è una cosa brutta, è talmente brutta che quando tu vedi una persona brutta, dice brutta come un debito. È vero. È brutta, è una cosa brutta. E io so che Gesù stava parlando di una cosa molto, molto pesante, che è il debito. E noi, già a quel tempo, tutti vivevano dell'idea di cos'era un debito. Incredibile. Però qui non sta accusando nessuno di dire «Ehi tu, brutto, screanzato, irresponsabile che hai fatto debiti, adesso chi li paga?» No, Gesù sta diventando in quel momento una guida e una via per uscire da quel sistema. Rileggiamo il verso, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Nel testo originale, il verso di questa preghiera è scritta sia qui in Matteo e anche in Luca 7, e in entrambi i casi la parola debito viene in qualche modo raffigurata e assimilata nel significato di colpa. E nel tedesco anche, nella lingua tedesca, la parola debito significa colpa. Peccato che in italiano non significa colpa, forse faremo meno debiti probabilmente. Però è così importante capire il significato di questa etimologia della parola, perché ci dà il senso dell'idea che Gesù ci stava dando con questa frase, così chiave. È importante per la nostra vita. Quando dice rimetti a noi i nostri debiti, sta ovviamente dicendo rimetti le nostre colpe. Rimetti intende cancella. Cancella. Non sta dicendo se per favore Dio puoi fare uno sconto o se per favore Dio puoi aspettare perché io non ho la possibilità di pagare adesso. No, c'è scritto una frase coraggiosa, dice cancella le mie colpe. Come fai a cancellare un debito? È incredibile, però è così, perché se è vero che noi accumuliamo debiti in continuazione, come abbiamo detto, no, nella nostra vita di ogni giorno, il problema più frequente e più pericoloso in realtà non è quello che spendiamo per pagare le rate, eccetera, ma è un debito ancora più importante che abbiamo nel conto della giustizia di Dio. Dio ha stabilito un piano di pagamento per i peccati, per le colpe. Mi dispiace, ma è così. Nella sua giustizia Dio è perfetto e ha dato a suo popolo la legge, come sapete bene. La legge è un manuale che ci dice questo è il conto da pagare. Non c'è altra strada. Questo è il conto dei debiti che tu hai da pagare. Ed è difficile considerare che noi possiamo in qualche modo avvicinarci solamente un pochettino all'idea di pagare il conto a Dio. Questa è una notizia ancora peggio di quella di prima. Noi abbiamo debiti con Dio, ma proprio grossi, perché hanno a che fare con la nostra vita, con la nostra condotta. Ed è vero che non ce ne rendiamo conto e pecchiamo, anche se non vogliamo a volte. Oggi abbiamo sentito stamattina, dobbiamo allineare la nostra volontà al nostro fare, al nostro renderlo alla volontà di Dio. È solo così che possiamo considerare di vivere, non mancare gli obiettivi di santità che Dio ci dà. La legge non era solo, come potete forse sentire in questo momento, un atto d'accusa, no, non era questo. È solo dire, è una linea tracciata di santità. Chi la può percorrere? Chi la potrà percorrere? Chi lo ha mai fatto veramente? Solo Gesù. Solo Gesù. E questo, lo so che non è una nuova notizia per voi, però in realtà noi diamo tanto per scontato questa cosa. E io vorrei proprio prendere tempo con questo messaggio di concentrare i nostri pensieri su quello che è il significato di questo pagamento, perché Gesù non ha pensato di risparmiare niente, niente della sua vita. Il concetto della legge era che c'è un peccato e c'è bisogno di un pagamento per l'espiazione, non in denaro, ma era in sacrifici di animali. E questo lo sappiamo, no? Ma quale cosa poteva pagare il debito enorme dell'intera umanità? Non stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare solo con il passato, ma ha a che fare con il presente e ha a che fare con il futuro. Quello che Dio ha stabilito è un pagamento totale. E quando noi ci approcciamo alla grazia di Dio, al suo perdono, a volte siamo troppo limitati nel pensare a questa cosa, perché pensiamo che Gesù ha pagato per i miei peccati, ma i miei peccati del passato. Però in realtà io ne vivo anche al presente. Ora, io ho una buona notizia, perché Gesù ha pagato tutto. Gesù ha pagato tutto. Ha pagato i tuoi peccati passati, ha pagato i tuoi peccati presenti e ha pagato per i tuoi peccati futuri. Davanti a Dio il tempo non esiste. Esiste solo tu davanti a Lui e tu che sei perdonato e tu che sei graziato. La grazia di Dio è questa. La grazia di Dio è questa. È molto più semplice di quello che pensiamo. C'è una colpa, espiazione, e Gesù è stata quella moneta, quell'assegno pagato, incommensurabile, inimmaginabile per il debito enorme di tutta l'umanità, passata, presente e futura. Questa cosa ti lascia indifferente? A me no, mi fa venire i brividi. Perché Lui ha pensato un piano di uscita e non di un escamotage, ma è una vera salvezza. E davanti a tutto questo, qual è il tuo atteggiamento? Qual è il mio atteggiamento? Devo dire che sono spesso superficiale con questo concetto. E non è sempre facile andare ad allineare quest'idea alla mia vita pratica. In realtà abbiamo tutti i nostri problemi e sappiamo bene che dobbiamo fare i conti con questo, col fatto che noi non riusciamo a vivere pienamente il significato della grazia nella nostra vita, perché ci sono sempre atteggiamenti diversi di come noi ci poniamo di fronte a questo assegno in bianco che è la grazia di Dio. Riuscite ad immaginarvelo? Un assegno in bianco che paga tutto per te. Ok? Non so che quanti debiti tu abbia, non so qual è l'entità dei tuoi mutui, ma ti rendi conto se oggi io sono qua e ti dico: guarda, c'è questo assegno in bianco e puoi stare tranquillo per il resto della tua vita, anzi per il resto dell'eternità. E questo è il senso della grazia. Perché non lo raccogliamo? Perché non lo raccogliamo pienamente? Perché non lo facciamo sempre nostro? Qual è l'approccio che noi abbiamo rispetto a questa grande verità, a questo principio fondamentale in cui noi crediamo e in cui noi abbiamo posto la nostra fede? Perché l'unica cosa che tu puoi fare è credere che non c'è più debito per te. E quando tu lo afferri, quando tu lo credi pienamente, la tua vita non è più la stessa. È questo che ci fa incontrare Dio. E questa è la nostra speranza. Perché tu non sei più condannato, ma tu sei salvato. Tu avevi un debito, grosso, e non ce l'hai più. Sì? Siete con me, per favore? Ok. Gesù è l'espiazione totale per questo. Quando Gesù ha incontrato la donna adultera, era circondata da uomini che volevano lapidarla, vi ricordate questo episodio? A un certo punto questi uomini si allontanano perché Gesù dice questa frase fantastica: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E questi uomini a uno si allontanano. Gli dice: se non avete debiti, ok, iniziate pure. Oppure loro si sono riconosciuti debitori, si sono allontanati. E poi cosa è successo? Gesù si è trovato di fronte a questa donna e gli ha detto questa cosa bellissima, Giovanni 8. Cosa dice Giovanni 8? Alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata. Ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù le disse: neppure io ti condanno. Va e da ora in poi non peccare più. Sapete cosa sta dicendo qui? Ehi, non fare più debiti. Non fare più debiti. Perché io ti ho amata. Tu sei preziosa per me. Non hai bisogno di attirare più l'attenzione di uomini. Non hai bisogno più di sentirti insicura. Non hai bisogno più di elemosinare amore. Perché io sono la risposta completa per te. Non hai bisogno di ancora contare i debiti dei tuoi fallimenti nella tua vita materiale e spirituale. Io sono colui che paga i tuoi debiti, non ne hai più, non ne andare a fare più debiti, perché io sono il pagamento di ogni cosa, io sono colui che paga i tuoi debiti, non ne fare più debiti. Perché questo verso diventa cruciale nella nostra vita di ogni giorno? Perché ci comportiamo un po' con l'idea: ok, io ho ricevuto la grazia, però devo fare qualcosa, devo pagare io qualcosa, non è possibile che non devo pagare niente, io voglio pagare di più, come diceva uno spot pubblicitario. No, non devi pagare niente, perché è stato pagato tutto. È quello che Gesù ti invita a fare oggi e a riconsiderare. Per piacere, non fare più debiti, perché non ne hai bisogno, perché Lui è la risposta completa ad ogni cosa di cui hai bisogno. Non ne fare più, non ne fare più. Eppure, il nostro atteggiamento verso questa enorme ricchezza è sempre al limite del superficiale. Avete presente quanto la gente ricca, non so, da rivista, no? Quelli che vedete la rivista del bar o dal parrucchiere. No, c'è la gente che ha la barca, stanno sullo yacht, fanno i selfie, hanno l'amico famoso e vivono ogni sera un party, una festa. E tutti sanno di tutto e noi ci interessiamo pure della loro condotta sviata, perché perdiamo tempo anche ad informarci di quello che fanno queste persone. Queste persone ricche non hanno assolutamente niente, perché stanno sprecando la loro ricchezza, non la stanno vivendo consapevolmente. Sono sì ricche, ma probabilmente per fare tutte quelle cose che fanno, fanno altri debiti per avere quello stile di vita, per comportarsi in quella maniera. Quella ricchezza è sprecata, quella ricchezza manca di obiettivi, quella ricchezza non serve a niente, se non al proprio egoismo e alla propria soddisfazione. È questa la ricchezza che vuoi avere tu nella tua vita? È questo il senso della grazia che hai riguardo a Dio? No, no, perché ci sono persone più sagge. E una di queste persone, di cui non sapevo il nome, è questo signore qui, che vedete alle mie spalle, se c'è la slide. Questo signore si chiama Carlos Slim. Quanti di voi conoscono Carlos Slim? Chi è Mario? Hai fatto finta. Mario, io ti ripeto per l'ennesima volta che in questa chiesa non pratichiamo la menzogna. Non dire bugie. Questo signore anziano, diciamo, non è proprio giovanissimo, è un vedovo, ha 6 figli, è un uomo d'affari, non ha un computer, fa molti, molti affari, grossi business, e sapete, lui prende appunti a mano quando deve concludere i propri lavori, un po' come il pastore Pinuccio, diciamo. Ed è fantastico quest'uomo perché è un uomo saggio, è un uomo ricchissimo. Il suo patrimonio è stimato in 65 milioni di dollari, il che vuol dire che quest'uomo è il secondo uomo più ricco del pianeta. L'avete mai visto su una rivista? L'avete mai visto a fare le feste sullo yacht? No, perché lui sa come usare il suo potenziale e la sua ricchezza e concludere buoni business. Un uomo che si è dedicato alla filantropia, cioè aiuta le popolazioni nel bisogno per un aiuto umanitario, no? Addirittura lui è responsabile del progetto di legge della regolamentazione delle donazioni degli organi, ok? Lui si è mosso con il suo potere, anche economico, per far iniziare una legge buona nel suo paese. Questo è usare bene una ricchezza. Questo è usare bene quello che gli è stato affidato. E probabilmente, forse non sentirete mai parlare di quest'uomo messicano, ma lui è l'uomo, dopo Bill Gates, più ricco del mondo. È incredibile, no? E io vorrei sfidarti a considerare che la tua vita spirituale possa avere un'attitudine come questa, che tu possa vivere l'idea della ricchezza e della grazia che Dio ti ha dato in un senso che non fa mancare obiettivi di santità. Ripeto, la nostra ricchezza, la grazia ricevuta da Dio è importante per non mancare gli obiettivi di santità che Dio ci ha affidato. Quando Gesù dice vai, non peccare più, non sbagliare, è obiettivo. Usa bene la tua ricchezza. Comportati da Carlos Slim, ok? E io credo moltissimo che dobbiamo concentrarci molto di più nelle nostre scelte, nella nostra vita personale, a dare valore e peso al senso della grazia di Dio. Perché forse la raccogliamo in maniera troppo superficiale. E sapete quanto quello che abbiamo ricevuto, la ricchezza che abbiamo ricevuto può diventare veramente efficace? Io sono rimasto così, è una cosa banalissima, ma la grazia di Dio si attiva, ha valore, si concretizza, si mette in moto quando tu la pratichi sugli altri. È incredibile, ma è vero. È così. Ed io sono rimasto ancora una volta strabiliato di come Dio fa le cose in una maniera, in un ordine perfetto. Perché finora ho pensato, ok, ho la grazia di Dio, ho la salvezza di Dio, mi piace servire in chiesa, pago il mio conto a Dio, che poi lo facciamo questo conto. Ci sentiamo tutti creditori nei confronti di Dio, ma noi siamo solo debitori nei suoi confronti. Non saremo mai in una posizione di reclamare o chiedere qualcosa, perché siamo tutti debitori a Dio. Voglio ricordarvi una storia che è scritta in Matteo 18. In Matteo 18 c'è questa storia, non la leggo, ve la ricordo, dove c'è un uomo che ha un debito enorme, un debito di 10.000 talenti, 10.000 talenti. E va dalla persona a cui deve questi soldi, gli dice, ehi, io non posso pagare. E dice, va bene, se non puoi pagare, va bene, non fa niente. Questo era disperatissimo perché doveva morire, cioè non è che si poteva non pagare il debito, ok? E questo signore, ancora più ricco di lui, dice, senti, non fa niente, il tuo debito è cancellato, non mi interessa più riceverlo, non ti preoccupare, vivi il resto della tua vita in pace. Sapete cosa fa quest'uomo quando esce? Invece di andare a dire a tutti, ehi, io non ho più debiti, C'era un debito grande, ma neanche come una casa, come un'intera nazione, e io non lo devo pagare più. Sapete cosa ha fatto? Ha incontrato una persona che gli doveva dei soldi, che gli doveva 100 denari. E sapete cosa gli ha detto? Leggiamolo, 18:23 mi pare, sì. Afferratolo, cioè non è che lo stava sgridando, no. Afferratolo, lo strangolava dicendo paga quello che devi. Ma che razza di persona è questa? Questa è una persona come te e me. E sapete poi il Signore, quando ha saputo di questa cosa, gli ha detto, ehi, dovevi avere il debito cancellato, ma adesso perdi quello e l'altro, perché ti leghiamo e verrai venduto come schiavo. Questa è la fine che devi fare. Ma vi rendete conto? Io, sinceramente, non solo stato solo colpito dalla storia, ma sono andato anche a farmi il calcolo di questa cosa. Vi premetto che non è un calcolo preciso, quindi approssimativo, anche su valori che potrebbero avere a che fare con l'euro, ok? E ti dico che il valore di 100 denari equivale all'incirca 53.000 euro, perché se vi ricordate l'episodio di Giuda che vende, tradisce Gesù per i 30 denari, ok, si stima che con 30 denari era possibile acquistare un terreno, quindi più o meno il reddito di un anno di una persona, ok, l'intero salario di un anno, quindi moltiplicato circa per 2,5 volte, il debito che aveva il suo debitore era di 53.000 euro, un sacco di soldi, un sacco di soldi. Ma tu, se hai una persona che ti deve 53.000 euro, lo prendi un po' per il collo, dai, di la verità. Dici, mi devi dei soldi, cioè non è che gli doveva poco, gli doveva 53.000 euro. Tanti soldi, io non so, ne ho mai visto in vita mia tutti insieme 53.000 euro. Ma sapete qual era invece il debito? I 10.000 talenti? Vi dico che un talento era una moneta virtuale che corrispondeva a 34 chili d'oro. Se un chilo d'oro oggi è stimato in 32.000 euro al chilo, il debito che questa persona aveva è questa cifra qua. 11.000 milioni di euro. 11.000 milioni di euro. Una cifra irrestituibile per qualunque essere umano. Io non so come si fa a fare 11.000 milioni di euro di debiti. Cioè, non lo so che cosa ha combinato quest'uomo. E se voi mi state dicendo, guarda Vito, hai sbagliato calcolo, guarda, vi abbono anche le ultime tre cifre, ma sono 11 milioni di euro. Capite il senso? Il debito che tu hai con Dio è 11.000 milioni di euro e non lo potrai mai pagare, e stai tranquillo che non lo pagherai mai. Perciò Dio ha provveduto Gesù per perdonarlo e per perdonarti e pagarlo. Non c'era altra strada, non c'era altra via. Lui ha pagato il debito enorme che tu avevi con Dio. Ora, perché quando qualcuno ti taglia la strada, o ti offende, o non ti saluta più, o ti toglie l'amicizia da Facebook, tu vai lì e gli dici, ma come ti permetti di trattarmi così? Perché fai così? Perché facciamo così? Io vivo una condizione emotiva molto permalosa, ve lo dico. Cioè, per piacere, state attenti a non offendermi, perché io me la prendo. Va bene, tanto lo so che pure voi vi offendete, siete tutti permalosi anche voi. Però vi dico che realmente per me è difficile pensare a tante offese ricevute, a tante cose subite. E sapete cosa facciamo noi in questi casi? Quando qualcuno ci ha fatto del male, gli diciamo, poi vieni che dobbiamo fare i conti. È vero. e stiamo lì a recriminare 53.000 euro contro il nostro debito neanche grande quanto quello della Grecia, di 11 milioni di euro. In che condizione ti trovi tu? Qual è il senso del debito che hai nei confronti degli altri? E quanta gente ha debito con te? Quanta gente ha debito con noi? Un sacco. Ogni volta che ci mettiamo anche a camminare per strada, succede sempre qualcosa, ma vedi a quello. Io credo che dobbiamo porre attenzione sul sistema di grazia che Dio ha stabilito per noi. Perché se vuoi vivere veramente il senso pratico della grazia, se vuoi vivere e sentirti perdonato da Dio, non lo sarai mai fin quando tu non la pratichi nei confronti degli altri. È facile, mi dispiace, è così facile che è così difficile. Perché non siamo disposti sempre a cancellare il conto della gente che ci deve qualcosa. E quanta gente è in debito con noi, lo sappiamo, lo viviamo ogni giorno, accumuliamo. Che facciamo? Io non ho un'idea più precisa di questa e vi voglio lasciare con questo concetto. Ed è un verso di Romani 8. Romani 8 dice questo. L'ultima slide, per favore. 13, scusa. Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo, wow, ha adempiuto la legge, ha pagato tutto il debito. Non devi pagare più niente. Non devi pagare più niente. Hai adempiuto la legge perché hai creduto nella grazia che ti è stata data, hai ricevuto quel perdono enorme, grande quanto un assegno da 11 milioni di euro, e gli altri non ti devono più niente. Dai, puoi farlo questo passo. Che ne pensi? È troppo difficile? Sì. Però se la grazia vive nella tua vita, se l'opera di Dio ha parlato al tuo cuore, ti ha trasformato, ha modificato il senso delle cose, dei tuoi pensieri, del tuo cuore, dei tuoi sentimenti, beh, allora i fallimenti degli altri li puoi anche cancellare. Il debito e il torto subito lo puoi cancellare, perché a te è stato cancellato tanto, è stato cancellato tantissimo. Ci alziamo in piedi. Voglio pregare. Capite perché vi stavo dicendo? Non è facile per me parlare di questo e predicare questo. Non lo è per nessuno di noi qui. E noi, Signore, ti preghiamo. Siamo qui davanti a te. Presentiamo la nostra vita, la nostra condotta. Innanzitutto ti chiediamo ancora una volta, Signore, grazie che tu hai pagato per noi. Grazie perché il tuo sangue è sangue vero, sangue versato. I chiodi erano chiodi veri che hai ricevuto nelle tue mani. E la croce era una croce vera e pesante che tu hai portato per me. E io ti prego, Signore, che questa grande regalo che tu mi hai fatto e che hai fatto a ciascuno di noi diventi pratico ed efficace nella vita di ogni giorno con le persone che sono intorno a noi, con nostra moglie o nostro marito, con i nostri amici, con i nostri colleghi, ma anche con i fratelli qui in chiesa. Signore, noi non vogliamo più portarci pesi da qui. vogliamo uscire di qua stasera e chiederti: Signore, per favore, paga tu il mio debito, perché io voglio pagarlo ai miei debitori, voglio cancellarlo, non voglio più pensarlo, e non è umano poterlo fare, non lo so, Signore, lo puoi fare solo tu, però la tua grazia è efficace e potente da promuovere e diffondere perdono nella vita di ciascuno di noi, non solo per noi stessi, ma per le persone che sono attorno a noi. E quando il tuo perdono arriva, la guarigione arriva, la tua pace arriva, un senso di libertà e di leggerezza arriva, perché siamo messi in libertà in quanto mettiamo gli altri in libertà. Signore, io voglio mettere in libertà tutte le persone che ho offeso. Voglio mettere in libertà tutte le persone che mi hanno offeso. E voglio chiedere che la tua grazia diventi efficace nella mia vita e nella vita di ciascuno di noi questa sera. Perché non c'è rimedio se non te. Non possiamo pagare, Signore, e nessun altro può farlo se non tu. Ti prego, Signore, nel nome di Gesù, l'unico nome che ci è dato per pagare ogni debito e per cancellare ogni debito. Amen.